La rosa purpurea di Franco D'Assisi. Un saluto da Franco D'Assisi, dalla Rosa Purpurea, dal cinema di Radio 24, come ogni sabato presente qui dalle 18 alle 19 per raccontarvi un po' tutto il cinema che c'è in sala e anche oltre. In una settimana nella quale si affacciano alle sale italiane davvero tanti film importanti, anche con aspirazioni commerciali ampie e sicuramente con nomi d'autore di tutto rispetto, che vanno da Ridley Scott a Terence Malick a Emir Kusturica. Vedremo che però non è tutt'oro quel che luccica, anzi a volte non luccica proprio. Questo lo diremo nel corso della nostra puntata, però è anche una settimana che ci porta del buon cinema italiano. Parleremo di Tutto quello che vuoi di Francesco Bruni con il regista fra poco qui alla Rosa Purpurea. Vogliamo cominciare però con un film che ha così un côté favolistico, fiabesco, che ricorda un po' le atmosfere create qualche anno fa da Jeunet con Amélie. Ve lo ricorderete il favoloso mondo di Amélie. Ebbene, è un po' la strada sulla quale cerca di inoltrarsi This Beautiful Fantastic di Simon Abboud con Jessica Brown Findlay e Tom Wilkinson, che racconta la storia di una ragazza forse disordinata dentro ma molto ordinata fuori, quasi a livello ossessivo, e di un vicino di casa tanto burbero quanto fondamentale nella crescita di questa giovane donna. E noi abbiamo mandato a vedere il film la nostra Chiara Pizzimenti. Bella Brown, non c'era nulla di normale in quella ragazza. Terrorizzata dall'imprevedibilità della natura e della flora, in particolar modo. Eugene O'Brien, padrone di casa, è una questione urgente, signorina Brown. Doveva mantenere in buono stato la proprietà, signorina Brown. E la signorina Brown, proprio in buono stato, la proprietà non riusciva a tenerla. Troppe paure, troppi atteggiamenti ossessivo-compulsivi e soprattutto il terrore della natura, particolarmente grave se per mantenere la casa hai appena un mese di tempo e l'obbligo di ripristinare quello che era uno splendido giardino nel cuore di Londra e che invece è un campo di erbacce. Credo siano più belli attaccati alla pianta. Stavo solo cercando di dare una ripulita. Così ha detto Hitler sull'Europa. Io sto provando a mettere in ordine. E se lei avesse un briciolo di umanità, mi aiuterebbe. Se però mi ridai il mio cuoco. No. Sì. Accetto di cucinare, ma lei aiuterà Bella a sistemare il giardino. Quando è stata la sua ultima confessione? Come si crea un giardino? Come lo si mantiene vivo da aprile a ottobre? Fondamentali nella via del ripristino gli incontri con il burbero vicino di casa Alfie Stevenson, interpretato da Tom Wilkinson, e Vernon, un cuoco dal cuore d'oro, vedovo da poco, con due gemelle a carico. Un equo scambio sancisce che Alfie aiuterà Bella fin tanto che Vernon cucinerà per lui. Alle presentazioni manca un terzo uomo, Billy, Jeremy Irvine. Bella, che scrive libri per bambini, incontra questo ingegnoso inventore nella biblioteca in cui lavora e se ne innamora. L'altro giorno in biblioteca ha lasciato un pezzo di carta. Io creo oggetti, io sono un designer. Questa è Luna, usa l'energia della luce. Ci sto impiegando un'eternità. Ogni cosa di valore richiede tempo. Continua. Vita e natura cercando la luce. Voglio sapere che succede dopo. Grazie. È stato un piacere per me farlo. Bellissimo. Fantastico. A raccontarlo e basta. Appare come una fiaba, bella peraltro, sulla natura e sull'amore. Ma a vederlo sullo schermo la sensazione è prima un'altra. Quella di riassaporare lo spirito del favoloso mondo di Amélie. Favole entrambe, con amore entrambe, con personaggi estremamente particolari entrambe, anche se di più è meglio la francese. Con questo non si vuole però dire che ci siano copiature. È che la sensazione è inevitabile, i colori tenui e sfocati, la voce fuori campo e anche il risultato non è lontano. Una commedia godibile, una favola moderna, ma favola, visto che la protagonista dice di essere stata allevata dalle oche. La interpreta Jessica Brown Findlay, volto di Downton Abbey, ma il migliore in campo è Tom Wilkinson, il pigmalione della situazione, se si vuole tornare nei classici britannici, come sono peraltro i Giardini Segreti. Tutte storie di crescita e di rinascita, di sbocciature si potrebbe dire. Simon Abboud, che dirige, la rende originale per quel minimo che serve a essere interessante, senza risultare troppo uguale al modello. Ha il pregio di intrattenere dolcemente. This Beautiful Fantastic ce l'ha raccontato Chiara Pizzimenti, il primo film con il quale vogliamo raccontarvi un po' le uscite di questa settimana, dando un'occhiata però anche a quello che sta succedendo in classifica al box office, perché va sottolineata una quella che ormai è una specie di tendenza, cioè ci sono una serie di film che stanno facendo molto molto bene al botteghino. Ovviamente capeggia I Guardiani della Galassia volume 2, di cui abbiamo parlato la settimana scorsa, che è stato ovviamente un incasso monstre, che veleggia in maniera piuttosto rapida quasi verso i 10 milioni di incasso già alla fine della scorsa settimana, è arrivato a 6 ed è il film più visto. Però nell'incasso globale si stanno muovendo molto bene, per esempio Famiglia all'improvviso, Istruzioni non incluse, che comincia a essere una vera e propria sorpresa, il film con Omar Sy che si ritrova padre di una bambina che non sapeva di avere, deve costruire da zero un rapporto, ha già superato i 6 milioni di incasso globale, pur essendo fuori da 3 settimane, e da 3 settimane è fuori anche Baby Boss, e anche Baby Boss ha superato i 6 milioni. Questo per dire che c'è un prodotto medio in questa fase al cinema che sta evidentemente colpendo il pubblico italiano. Voglio anche sottolineare la buona performance della Tenerezza di Gianni Amelio, che è ancora fuori in molte sale e veleggia verso i 2 milioni di incasso globale, e anche l'ottimo andamento del film Marito e Moglie, anzi Moglie e Marito, con Favino e Kasia Smutniak, che invece i 2 milioni li ha superati ed è fuori da 4 settimane, ovvero da quasi un mese. Insomma, qualcosa si muove in quel famoso prodotto medio che molto spesso è stato accusato di non esserci, di essere sparito, o ci sono i blockbuster da 20 milioni o ci sono film che faticano. Invece in questa fase ce n'è, evidentemente il gusto del pubblico premia questi film e noi siamo qui a raccontarveli. Fra poco torneremo al cinema italiano con quello che secondo me è davvero il film della settimana, Tutto quello che vuoi, con Giuliano Montaldo di Francesco Bruni, che sarà con noi qui in collegamento telefonico fra poco alla Rosa Purpurea. Ora viabilità. La Rosa Purpurea. Ed eccoci insieme, la Rosa Purpurea, come annunciato, per parlare di Tutto quello che vuoi, il film italiano sicuramente più interessante di questa settimana, almeno secondo la nostra redazione. Regia di Francesco Bruni, Giuliano Montaldo, il grande Giuliano Montaldo, insieme ad Andrea Carpenzano, Donatella Finocchiaro e tutta una serie di giovani attori nel cast, per raccontare una storia di quelle che poi prendono lo spettatore appena le carte in tavola cominciano a essere chiare, ovvero la storia di un ragazzo giovane, un ragazzo con magari qualche problemino a capire il suo punto, come molti della sua età per il resto, il suo punto sulla terra, dove sono, chi sono, cosa voglio fare, magari con un po' di prepotenza nel gestire alcune situazioni e magari anche con una banda di amici aficionados ma assai casinisti. Ho torto collo, in un certo senso. Gli capita sulla strada un anziano signore, un poeta, che comincia ad avere segni di cedimento senile, diciamo così, ma che ancora ha una capacità e un fascino nell'eloquio, che comincia a colpire pian pianino questo ragazzo, che ha il compito di accompagnarlo in passeggiate pomeridiane per i parchi di Roma. Questa cosa diventa amicizia, diventa rispetto, diventa voglia di conoscere, di capire, di scoprire, diventa in una parola un rapporto quasi nonno-nipote che chiaramente cambierà soprattutto il giovane. Madonna, occhi di braccia. Sì, ma non è mia madre, vero? Sei sicuro? Direi, mia madre è morta quando avevo 2 anni. Mi spiace. Però ti guardava con due occhi così ammorevoli. E tua zia? No. Tua sorella? No, professore, abbozzi un po' però, eh? Abbozzo? Che cosa vuol dire abbozzare? Io lo spiego un'altra volta. Hai sempre avuto un brutto carattere, Carlo. Capire. E con noi Francesco Bruni, regista di Tutto quello che vuoi. Ciao Francesco, benvenuto alla Rosa Purpurea. Salve, buongiorno. Buongiorno a tutti. Allora, un film sulla memoria, potremmo dire, no? Sulla memoria come fatto fisico nostro, ma anche come valore da trasmettere fra le generazioni. Sì, anche quello sicuramente, perché da una parte c'è una memoria troppo piena che sta cominciando a faticare a inglobare altri dati, dall'altra ce n'è una forse un po' vuota, quella del ragazzo, e quindi deve avvenire un po' di travaso per il bene di tutti e due. Però c'è anche altro, c'è anche il discorso sull'accettazione, cioè sul fatto che lo sguardo amorevole di una persona nei confronti di uno più giovane può tirare fuori il meglio da lui. Ed è un tema, questo qui, è un tema caldo, secondo me, dei nostri tempi. C'è un problema di accettarsi fra generazioni, e c'è un problema anche di accettarsi interno alla generazione dei 18-20enni, che sono quelli raccontati un po' dal tuo film. Ma è una generazione a cui non stiamo lasciando una bella eredità, diciamo una verità, insomma. È la prima generazione che ha davanti a sé una prospettiva, diciamo, di regresso socio-economico, di disoccupazione, di un paese politicamente spaccato, ingovernabile. Quindi, insomma, prima di giudicarli, forse faremmo bene a giudicare noi stessi e il paese che gli stiamo lasciando. Perché quello che poi succede, per esempio, al protagonista del tuo film, che una volta che si intrippa, come direbbero loro, in questo viaggio, sì, su questo poeta, in questa parete piena di graffiti e non diciamo niente di più, sì, chiaramente capisce questa mancanza di qualche contenuto che gli è sfuggito, e comincia anche ad andarlo a inseguire un pochino, no? Esatto. Proprio anche nelle biblioteche, a capire cosa gli manca. Questa è una cosa in cui credo profondamente, cioè che i ragazzi di quella generazione, in presenza di una motivazione forte, sono capaci appunto di fare sforzi inaspettati e anche persino di studiare e di andare in biblioteca a fare ricerche sulla Seconda Guerra Mondiale. Mazza, questa è tutta una roba seria. E che ci devi fare? Una ricerca. Ah, quindi studi ancora? No, è tipo un hobby per me. Segnati pure questo. Sì. Faccio la foto. Dai, Mo che ce la faccio? Adesso devi compilare la richiesta, andare a prestito. Ce l'hai adesso? C'ho quello della curva, se vuoi. Cioè, c'ho il daspo, però c'ho quello della curva. Ma cazzata. Vabbè, c'ho la mia. E la cosa bella che succede, Francesco, come in questa clip, è che quasi lui si vergogna, no, di dire che sta studiando, perché se per l'istituzione non va bene, però no, è un hobby, tutto sommato, in esatto, questo senso tutto funziona, no? Cioè, esatto, sì, anche quando glielo chiede l'anziano, ma lei studia, lui dice no, ho smesso, come se si trattasse esatto, di fumare. Esatto. Senti, ovviamente protagonisti giovani del cast giovane, sono tutti molto bravi e funzionano perfettamente, anche quando nella seconda parte del film parte una sorta di road movie che, sì, che il pubblico scoprirà, però io ho trovato che la rivelazione attoriale di questo film fosse sia Giuliano Montaldo, cioè Giuliano Montaldo, che noi conosciamo come straordinario regista di capolavori, sì, della storia del cinema italiano, pensiamo a Sacco e Vanzetti, tanto per dirne uno, L'Agnese va a morire, eccetera. Giuliano Montaldo, questo attore, poeta, così sicuro delle sue parole scolpite nella pietra, così come il ragazzo invece ha parole prese lì per strada al momento. Insomma, straordinario lavoro e straordinaria rivelazione. Mi sembra incredibile averlo scoperto io come possibile protagonista, perché Giuliano, chiunque lo conosce, sa che è una presenza straordinaria, è pieno di senso dell'umorismo, è elegante, spiritoso. Quindi, diciamo, è una perla che ho trovato incredibilmente ancora libera, ecco. Ciao Francesco, grazie di essere stato con noi. Grazie, arrivederci. E allora tutto quello che vuoi, tutto quello che volete voi, oltre ad ascoltare della buona informazione sul cinema, è vincere il nostro film della settimana, il film misterioso. Oggi giochiamo con un'edizione davvero particolare di questo film. È la lama di un assassino. Questa è proprio quella che ha usato tuo padre per togliere la vita a tua madre. Abbastanza criptico per il momento, però se avete già indovinato di che film si tratta, guardate, ne vale davvero la pena. Scriveteci alla rosapurpurea@radio24.it, includendo il vostro indirizzo e il titolo del film, ovviamente, per provare a vincere una delle due copie Blu-ray molto particolari di questo film, di cui fra un po' vi faremo ascoltare un'altra traccia. Andiamo avanti col cinema e salutiamo Boris Sollazzo, che è già in collegamento con noi. Ciao Boris! Buongiorno Franco a tutti gli ascoltatori. Ben ritrovato. Allora, è una settimana, dicevamo in apertura di trasmissione, con tanti autori di nomi molto ingombrante che arrivano nelle sale, di tanti film di potenziale commerciale alto, ma anche di qualche delusione. E allora adesso noi ci inoltriamo in questo deserto, diciamo, tortuoso, nel quale cercheremo di capire se c'è qualcosa da salvare in queste tante grandi produzioni, che poi magari però hanno anche qualche lato debole. Cominciamo da King Arthur. Il titolo ci riporta immediatamente a Re Artù, ai Cavalieri della Tavola Rotonda, a Expedition Excalibur, la spada nella roccia. Ascoltiamo questa clip e ne parliamo. Sono l'uomo sbagliato, Sire. Sono nato in un bordello, su un ponte di Londinium. Il solo che può estrarre la spada è Uther Pendragon. O il suo diretto erede. L'hai sentito, vero? Il potere. Perciò ce l'hai fatta. Solo non sai come controllarlo. Una versione a metà fra l'iperrealismo, il videogame, l'estetismo di Guy Ritchie, che è il regista e che ha sempre un po' un approccio iperestetizzante nei suoi film, per raccontare la storia del giovane Arthur, in questo caso interpretato da Charlie Hunnam, che appunto deve estrarre la leggendaria spada dalla roccia in cui è incastonata, diventando così il proprietario di Excalibur e il sovrano del regno. Nel cast, tra l'altro, nomi importanti: Eric Bana, Jude Law, tanto per farne alcuni, ma l'effetto videogame, Boris, mi sembra più che dietro l'angolo. Mamma mia, è proprio così, l'effetto videogame, l'effetto Zack Snyder e ovviamente l'effetto Guy Ritchie, perché Ritchie è convinto che può trattare Re Artù e la sua leggenda come se fosse appunto un capitolo di un videogioco. Ricordiamo che l'ipotetico franchise, se verrà premiato dal botteghino, dovrebbe contare 6 film, motivo per cui voi in questo King Arthur praticamente non sentirete parlare di Ginevra, Morgana e Lancillotto, e Merlino lo vedrete solo di spalle, perché appunto non ci sarà alcun riferimento a loro, perché si prevedono altri 5 film. Noi ci auguriamo di no, e lo diciamo da fan di Guy Ritchie, cioè da fan di Snatch, del suo Sherlock Holmes, di un cinema divertente, di un cinema che ha sempre trovato un modo fantasioso, creativo, di cercare i colori della realtà, o come hai detto tu giustamente, dell'iperrealtà. Il problema è che bisogna adattare la propria regia anche agli argomenti. Guy Ritchie pensavamo ce la potesse fare, e in effetti si vede che questo King Arthur è tutta roba sua, e però non si richiama minimamente né alla leggenda che noi conosciamo e che può essere edulcorata dalla classicizzazione, né tantomeno però alle sue cose migliori. Sembra una parodia di Guy Ritchie che racconta Re Artù, dove appunto Artù è un farabutto alla The Snatch, un uomo che si è costruito da solo sulle strade di Londinium. Lo vedi quando insieme a un compare racconta la sua vicenda, la racconta con quel quacervo di stupidaggini e cose importanti che ci sono sempre nei monologhi e nei dialoghi di Guy Ritchie. Sembra davvero Guy Ritchie che prova a crescere e rimane il solito bambino, ma con in mano un giocattolo troppo grande. E così King Arthur rimane solo ed esclusivamente un'autoparodia dello stesso Guy Ritchie. Ci sono sommosse, non solo a Londinium, ma nell'intero paese. Il popolo combatte per te. Se aspettavamo un'occasione, è adesso. E va colta al volo. Ma, come ha detto, non vogliamo forzarti. Sono pronto. Conquisteremo il castello. E dalla porta principale. E questo allora è King Arthur, il potere della spada. Fra poco parleremo di Alien Covenant. Speriamo che le cose vadano un po' meglio. La rosa purpurea. Avete sacrificato tanto per essere qui e far parte di quello che stiamo facendo. È la prima missione di colonizzazione su larga scala. E tutti sulla Terra vi sono grati per il vostro duro lavoro. Stiamo facendo la storia. Questo è grano. Che probabilità ci sono di trovare colture umane così lontano dalla Terra? Chi lo ha seminato? Alien Covenant, il film con cui ricominciamo in questa terza parte della Rosa Purpurea. La firma è sempre quella di Ridley Scott, il capobanda di questa straordinaria storia e saga che è Alien. Qui siamo al capitolo successivo a quello di Prometheus, il film precedente, che racconta in questo caso di una missione appunto sulla Covenant, un'astronave con a bordo 2000 persone che devono andare a colonizzare in maniera piuttosto massiccia un pianeta, Orighe 6. Nel viaggio un grave incidente stellare, diciamo così, provoca una via diversa da quella che era prevista, e bisognerà lottare anche per la sopravvivenza. Boris, hai una responsabilità molto molto grande, questo tu lo sai in questo momento, perché ci sono centinaia di nostri ascoltatori che stanno aspettando di sapere quello che abbiamo da dire su Alien Covenant, perché quando questi film cominciano a diventare saga, e quando diventano saga diventano remake della saga, c'è sempre un po' di paura, no, nell'affrontare il tema. Allora dici che ci sono dei motivi per andarlo a vedere. Allora, io ho il tragico sospetto che quello che dirò non li aiuterà a non andarlo a vedere, proprio come non ha aiutato me il saperlo da altri il non andarlo a vedere, perché poi ci sono dei titoli di cui non ti puoi privare. Purtroppo di motivi per andarlo a vedere ce ne sono davvero pochi. Se vogliamo trovare un filo rosso in questa settimana, è la reiterazione di grandi autori di se stessi che però vuoi la vecchiaia, vuoi probabilmente un'incapacità di vivere il presente cinematografico, non riescono non solo ad adattarsi al presente ma nemmeno a se stessi come erano allora. Alien Covenant, forse di tutti quanti questi classici, diciamo così, attesi, ne è la dimostrazione più palese. Intanto è un ibrido che prende il peggio di entrambe le anime, perché è, hai detto bene, è un sequel ma è anche un prequel, quindi è il prequel del sequel probabilmente, o il contrario, in cui noi ci ritroviamo dopo Prometheus e prima del primo Alien, e quindi il film ha anche questa enorme responsabilità di costruire le basi di un universo che Scott aveva intuito con grande genialità, perché la sua fantascienza non era né la fantascienza ingenua degli anni 50, quella metaforica, quella politica, né tantomeno però quella filosofica di Kubrick. Era una fantascienza molto carnale, molto fisica, che si spava dentro questi mostri, questi ibridi appunto, che uscivano da corpi umani e si riconoscevano in un'eroina diversa, con un'idea diversa di femminilità che lui aveva trovato. In questo modo riusciva ad essere sia una fantascienza appunto molto muscolare e allo stesso tempo però anche filosofica, per tutto quello che non veniva detto ma c'era sotto questo racconto, l'allegoria della guerra in Vietnam, il tentativo di raccontare come quello che avevamo visto in Odissea nello spazio di Kubrick avesse anche la possibilità di essere portato in una realtà chiaramente fantascientifica. Il problema è che in questi casi il non detto è fondamentale. Invece prima con Prometheus e poi con Alien Covenant Ridley Scott ha deciso di spiegarcelo, ed è evidente nel suo cinema come sia bravissimo nel raccontare, nel farci vivere quello che non si dice ma si intuisce, ma poi quando lo spiega, come gli è già successo in altre occasioni, lo analizza, probabilmente perché è l'intuito che lo fa seguire, è una grande tecnica e non una grossa strategia intellettuale al suo interno. E per il resto Alien Covenant poi non è nemmeno forte e potente in quello in cui ci saremmo aspettati, cioè nell'apparato visivo, infografico, negli effetti speciali, non c'è nulla che ci faccia ritornare alla paura, all'inquietudine, alla potenza delle immagini della prima trilogia di Alien. E quando ci ritorniamo anche lì perché sembra una parodia, perché penso alla scena di sesso, tra virgolette, che sembra presa di peso dagli anni Ottanta, o penso anche al momento del disvelamento del mostro, che davvero prende dagli effetti speciali solo la parte più sopra le righe. In questo senso, ecco, faccio una enorme fatica a suggerire di andare a vedere Alien Covenant, se non forse l'affetto per una saga che ci ha formato e che dal 79 in poi ha cambiato il nostro modo di vedere la fantascienza. Fammi uscire. Non posso. Faris, ti prego, aprire. Non posso. Dobbiamo contenere l'infezione. Apri questa porta del ghiaccio. Sacrifici umani a bordo della Covenant. Adesso giochiamo insieme perché c'è la seconda clip del nostro film misterioso. Ah, ti stanno osservando. Aspettano di vedere chi sei, pioniere. Lo hai già conosciuto? Lo hai già conosciuto? Allora, abbiamo parlato prima, per alcuni film di cui stiamo parlando, di effetto videogame. Ecco, fatemene una ragione, un po' c'entra. Il nostro indirizzo di posta elettronica è larosapurpurea@radio24.it. Scriveteci il titolo del film e il vostro indirizzo. Fra poco vi sveleremo di che film si tratta. Boris, adesso ho un po' paura perché mi sa che stiamo scendendo di livello. Anche qui il nome è altisonante, è il ritorno nelle sale italiane di Terence Malick. Però negli ultimi anni, diciamo, negli ultimi film, Terence Malick non è che l'abbia sempre azzeccata. A dire il vero, secondo me, è un po' che non l'azzecca. Ero molto fiducioso andando a vedere Song to Song perché un po' la locandina è molto comunicativa, è molto vinilica. C'è un disco di vinile lì in bella mostra, la storia poi ti racconta di artisti, musicisti squattrinati, amori, e pensi a qualcosa di estremamente narrativo che, accoppiato allo stile di regia di Malick, potrebbe dare, chissà, appunto, un prodotto molto interessante. Invece, alla fine un po' ti rendi conto che la locandina è la cosa migliore del film. Ascoltiamo questa clip. Probabilmente avrai un ragazzo. Mi aveva detto che ero carina. Come si chiama? Puoi dirmi anche tutte bugie. Puoi dire tutto quello che vuoi a me. È questo il bello di me. Abbiamo un po' faticato in redazione a trovare delle clip perché è uno dei pochi momenti in cui gli attori parlano fra di loro, nel senso che di solito invece è tutta una voce fuori campo che racconta quello che invece gli attori mettono in scena, con il mellifluo andamento della regia di Terence Malick. Gli attori ci sono, badate bene, le star sono di prima grandezza: Ryan Gosling, reduce dal successo di La La Land, Rooney Mara, Michael Fassbender, Natalie Portman, insomma... locandina ingombrante per, appunto, una storia di due musicisti, un produttore e un musicista, un produttore che crede in un musicista, una donna che non sanno di avere condiviso e forse di condividere ancora, un'altra donna che pagherà l'estremo sacrificio di questo mondo così incasinato della musica rock, del backstage, delle groupie e di un mondo che sembra non voler mai diventare grande. Boris, come dicevo, adesso al di là degli scherzi, Terence Malick mi sembra di questa parabola che tu hai anche raccontato giustamente, no? Quelli che reiterano se stessi, sia veramente l'emblema più eclatante. Decisamente sì, purtroppo devo dire che è anche tutta colpa nostra, perché l'abbiamo giustamente glorificato per anni, quando i suoi film arrivavano uno ogni 10 o addirittura 20 anni, perché aveva fatto dei capolavori assoluti, non aveva sbagliato un colpo, kubrickianamente era riuscito a interpretare le potenzialità del cinema al meglio, e quando poi è tornato un po' più di frequente, pensate solo che nel 2018 probabilmente avremo 6 film di Malick negli ultimi 8 anni e 6 ne avevamo avuti in 40, e c'è da dire che è colpa nostra, perché questa glorificazione o ha dato la testa a lui o ha dato la testa a noi, perché ricordo ancora Cannes come Tree of Life e To the Wonder fossero stati accolti in maniera straordinaria, ed erano dei film mediocri girati da un uomo con un occhio straordinario, ma la cui testa da creatore, da artista, era evidentemente andata in panne. Song to Song non ha né quella visione, diciamo, naturalistica, ma anche paesaggistica, anche filosofica, che potevi scorgere in qualche minuto degli altri film, e in più ha una narrazione che denuncia tutta la banalità della visione del Malick attuale. Mi verrebbe da dire, anche se forse è una considerazione generazionale ingenerosa, la senilità di un regista che è stato grande e che adesso si può permettere i giocattoli migliori, ovvero gli attori che preferisce, ma non sa più usarli, non sa più dove metterli. Questa sorta di, come dire, forse almost famous di Malick è proprio, come dici tu, la denuncia esemplare di come si possa finire per innamorarsi così tanto di se stessi da non riuscire a staccarsi dalle proprie visioni e dai propri vizi e vezzi. Ricorda molto To the Wonder il modo anche fisico di fluttuare, di cantilenare che hanno questi attori, che ingenerosamente, appunto, seguendo le tracce del maestro, cercano disperatamente di accontentarlo, esibendosi, a mio parere, in una delle loro peggiori interpretazioni, penso in particolare a Natalie Portman e a Fassbender, visto che secondo me Mara e Gosling sono un passo indietro in generale. E questo fa sì che diventi appunto un film tragicomico, tragico perché abbiamo secondo me perso un autore straordinario, comico perché in alcuni momenti è più facile ridere che compenetrarsi in questa sorta di closer in minima, però, perché appunto il film di Mac Nichols aveva una visione, anche quel menace qua a Qatar aveva uno spessore molto molto maggiore. Mi rendo conto che probabilmente andrò nell'inferno dei critici avendo stroncato così malamente Malik, ma lo faccio solo ed esclusivamente perché lo amo e l'ho amato visceralmente, quindi mi sembra giusto essere onesto fino in fondo. Disse: fidati di me. Potremmo fare un disco insieme. E io mi sono fidato. So che fai musica dal vivo, non ti andrebbe? Non vuoi fare un po' di soldi? Quello che volevo lui l'avrebbe reso possibile. Hai talento. Dove la prendi una giacca così? Fa camminare in modo diverso. Te ne procuro 100 di giacche così. Vedremo se dopo la viabilità ce la caviamo e ci risolleviamo con On the Milky Road di Emir Kusturica. Restate con noi. Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali. Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus. Dibidi dobidi DAB. Anche Radio 24 è in Digital Radio. La Rosa Purpurea. La quarta parte della Rosa Purpurea, e abbiamo ancora un film, ancora un grande autore, ancora un grande nome, vincitore di festival e tutto, insomma, l'autore simbolo di un certo cinema d'autore balcanico e soprattutto europeo degli anni 90, Emir Kusturica, che torna con On the Milky Road, che tra l'altro annovera nel cast Monica Bellucci. La storia di un uomo durante la guerra che tutti i giorni attraversa il fronte trasportando latte a schiena d'asino, potremmo dire, schivando le pallottole per riuscire a portare l'alimento così prezioso ai soldati. A un certo punto l'arrivo di una donna italiana, appunto Monica Bellucci, sconvolgerà la sua vita, e di chi non l'avrebbe sconvolta l'arrivo di Monica Bellucci. Ascoltiamo questa clip e capiamo subito perché c'è qualcosa che non va. E tu chi sei? La ragazza che sono stata una volta e che non sono più. Oggi ho visto un miracolo, padre. Che state facendo? Organizzano il matrimonio di tuo cognato. Mi sposo. Ho voluto venire qui per raccontarti la verità. Non abbiamo detto che l'altro, il protagonista del film è Emir Kusturica, a fianco a Monica Bellucci. Boris, dicevo, dopo la prima frase ci sarebbe da alzarsi e andarsene dal cinema. La ragazza che sono stata e non sono più. Ecco, già questa cosa ti dà una sensazione di artificio, di voler tornare su delle strade già calpestate, che poi la musica balcanica, l'ennesimo balletto, eccetera, eccetera, un pochino confermano, no? Beh, posso dare solo una giustificazione a Emir Kusturica, che mentre gli altri fingono o pretendono di essere grandi autori, lui non ha mai negato la cialtronaggine del suo cinema, anzi l'ha rivendicata. Ecco, lo posso perdonare per questo, perché in effetti l'autoparodia è un elemento che, mentre negli altri sembra estremamente casuale, in quello di Emir Kusturica, egocentrico e anche comunque autoironico, autosarcastico, sempre stato. Certo, anche lui in On Milky Road ha esagerato drammaticamente, perché sembra davvero in alcune parti un underground a tutto volume, sia per quanto riguarda la musica, sia per quanto riguarda le visioni, e soprattutto l'essersi messo in gioco anche come attore crea un paradosso parossistico in questo suo cinema, in cui lui non si ferma da nessuna parte, men che mai quando compare Monica Bellucci, che continua ad essere un'icona meravigliosa e che forse è l'unica a riuscire a intuire la grammatica del film, che è totalmente folle e totalmente scombinata, e in qualche modo ci si adatta, forse anche perché lei è particolarmente congeniale. Il problema, come dici tu, è che la prima cosa che ti viene in mente è proprio quella di alzarti e andartene dopo la prima frase, perché è talmente programmatica rispetto a quello che vedrai e che comunque non è neanche lontanamente vicina a quello che realmente vedremo, cioè un eccesso, un'esagerazione costante, che è inevitabile non capire come andranno le cose. Il problema di Kusturica, a mio parere, è molto vicino a quello di Malik. Cinematograficamente, a mio parere, ha ormai ben poco da dire, e quel poco che ha da dire lo dice piuttosto male. In più è altrettanto innamorato di se stesso, se non di più, quindi non si stacca nemmeno dalla parte peggiore e più fanfarona della sua grammatica. Quello che ne esce fuori, appunto, è questa Via Lattea in cui non hai nessuna voglia di perderti. Ma e forse in cui, forse in cui si è perso lui, forse in questa Via Lattea. Bene, è stata una settimana piena di falcidie, diciamo così, però insomma c'è rimasto imbigliato fra le dita tutto quello che vuoi, che alla fine rimane il nostro film della settimana. Grazie Boris, ci sentiamo fra 7 giorni, speriamo con un po' più di fortuna per quanto riguarda le uscite della settimana. Alla prossima settimana e buon cinema. E quindi questo è il panel, diciamo così, dei nostri film di questa settimana. Con The Milky Road chiudiamo l'analisi delle uscite in sala, dedichiamoci però al cinema da vedere in casa. E lo facciamo cominciando con il game della scorsa settimana. Allora, patata, perché sei qui? Eh? Dai, racconta, perché ti hanno portato qui? Ma guarda, hai delle patate nel piatto. Sei una patata che mangia patate. Ragazzi, patata è un cannibale. Un cannibale. E allora si trattava de La mia vita da zucchina, film che d'animazione che ha tanto ben impressionato nella prima parte di questa stagione, è diventato un piccolo film di culto, ha girato non solo nelle sale ma anche nei festival. Lo hanno indovinato per primi e quindi vincono l'edizione in Blu-ray di questo film Silvia Brunozzi di Roma e Raffaella Zamboni di Rovereto. Saranno proprio loro a ricevere a casa il Blu-ray di Vita da zucchina, che ci facciamo raccontare nei suoi contenuti dagli amici di Film TV. E con noi Giulio San Giorgio. Ciao Giulio. Ciao Franco, un saluto ai radioascoltatori. Sì, incontriamo Zucchina, il protagonista del film, nella sua casa, insieme a una madre alcolizzata e dentro una tragedia che lui stesso ha provocato. Poi lo ritroviamo, e lo ritroviamo in una casa famiglia, che è un istituto per bambini che hanno vissuto storie di abusi, droga e crimini. E tutto d'un tratto la vita si anima, si colora, la solitudine non è così radicale, arrivano piano piano l'amicizia, il gioco e il divertimento. Claude Barras, svizzero, ha trovato un equilibrio che sa di miracoloso tra la poesia, la realtà, la vita, la tenerezza, l'umorismo e la malinconia. È un piccolo grande film d'animazione che racconta le ferite della vita e l'immaginazione, l'amore. È sicuramente uno dei cartoon migliori di questi tempi, con la sua stop motion che veramente apre il cuore. Sono 63 minuti di vita animata, ma veramente esatta, e in un DVD scarno con making of come unico extra. E diamo un'occhiata allora ai palinsesti delle TV della prossima settimana per vedere quali film andare a recuperare. Una prima segnalazione la vorrei fare su domenica 14 maggio alle 2:45 di notte, quindi o siete nottambuli o bisogna che facciate andare i registratori, ma c'è New York Stories, film del 1989, che se non avete mai visto dovete assolutamente recuperare. Lo propone appunto Rai Movie alle 2:45. Tre episodi: il primo un pittore in crisi perché la sua allieva amante lo sta per lasciare, il secondo una ricca bambina vive da sola in un hotel perché i genitori sono sempre in viaggio, e il terzo un avvocato che è ossessionato dalla presenza della madre. Sono tante tra le luci di New York, vista una New York vista attraverso lo sguardo di tre grandissimi registi, Woody Allen, Martin Scorsese e Francis Ford Coppola, ma anche di tre grandi direttori della fotografia, che sono Nestor Almendros, Vittorio Storaro e Sven Nykvist. Sono tre piccoli episodi che sono atti d'amore, esercizi di stile e brevi film anche un po' imperfetti, di cui mi piace quantomeno ricordare la sensuale ossessione di Scorsese, in cui c'è un momento di montaggio veramente mirabile. la leggiadria aerea del frammento infantile di Coppola, che sostituì poi Spielberg nel progetto originale, e poi l'irresistibile conflitto edipico su cui si basa l'episodio più esilarante, che ovviamente è quello di Woody Allen. Il giorno dopo, lunedì 15 maggio, invece, in prima serata alle 21:20, sempre su Rai Movie, c'è un classico del western della New Hollywood, potremmo dire, come Butch Cassidy. Il regista della stangata rilegge la fine dell'epopea del West in una chiave che è insieme grottesca e disillusa. Gli ultimi fuorilegge romantici di quel periodo vengono ritratti come due avventurieri immaturi e canaglieschi e sempre pronti a buttarsi nei guai. Alle spalle della storia c'è un po' di 68, la contestazione e il richiamo del Sud America, e questo è un film che veramente ha fatto epoca al tempo, un tandem d'attori composto da Robert Redford e Paul Newman, che sono veramente in stato di grazia, e che un film che poi vinse diversi Oscar alla sceneggiatura, alla fotografia, alla musica e alla canzone, che è Raindrops Keep Falling on My Head di Burt Bacharach, che divenne un vero tormentone. E grazie allora a Giulio San Giorgio, ci sentiamo la prossima settimana. Ciao Franco, la prossima settimana. E le note della nostra sigla ci dicono che siamo arrivati in fondo alla nostra rosa purpurea di oggi. Vi ricordo il gioco con cui abbiamo appunto giocato insieme il nostro film misterioso di oggi. Si trattava di Assassin's Creed, tra l'altro nella edizione in 4K, il primo game della storia della Rosa in 4K, e quindi sappiate che vi arriverà un disco di grande valore, ma anche di grande possibilità visiva, se avete i televisori ovviamente in 4K in casa. Altissimissima definizione, potremmo chiamarla. I vincitori li annunceremo la prossima settimana. Grazie per averci seguito. Appuntamento a sabato prossimo alle 18. Un saluto da Franco d'Assisi.